Matteo, capitolo 20. Poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Ed uscito verso l'ora terza, ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro, «Andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Ed uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza, e disse loro, «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero, «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro, «Andate anche voi nella vigna». Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, «Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa, dicendo, «Questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo». Ma egli rispondendo ad un di loro disse, «Amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi». Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli, e camminando facendo disse loro, «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà». Allora la madre dei figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figliuoli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò, «Che vuoi?» Ed ella gli disse, «Ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». E Gesù rispondendo disse, «Voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero, «Sì, lo possiamo». Egli disse loro, «Voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse, «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti». E come uscivano da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare, «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte, «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, «Che volete che io vi faccia?» Ed essi, «Signore, che s'aprano gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.